Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico finanziaria, con la borsa di New York chiaramente chiusa per il 4 di luglio, l'Independence Day, ma in realtà non è tanto la borsa oggi a tenere banco, anche se ci attendiamo in questi minuti l'inizio della conferenza stampa per quello che riguarda le banche italiane e non solo le banche venete, volevo dire, ma anche e soprattutto la ricapitalizzazione precauzionale del Monte dei Paschi di Siena, visto che la Commissione europea ha approvato aiuti di Stato da 5,4 miliardi di euro per ricapitalizzare appunto in maniera precauzionale il Monte dei Paschi, dopo l'accordo di massima sul piano di ristrutturazione della banca senese, quello raggiunto lo scorso 1 giugno dalla commissaria Vestager e dal ministro Padoan. Secondo l'Unione Europea sussistono entrambe le condizioni per questo accordo. La BCE ha confermato che Monte dei Paschi è solvibile e soddisfa i requisiti patrimoniali, e l'Italia ha ottenuto un impegno formale da parte degli investitori privati ad acquistare il portafoglio di non performing loans, di sofferenze bancarie del Monte dei Paschi di Siena. Parleremo comunque in generale anche delle sofferenze bancarie come dato italiano, perché c'è un rapporto molto interessante su questo, un rapporto di Pricewaterhouse, ne parleremo con i diretti responsabili, su un rapporto proprio sui crediti deteriorati in questo paese. Potrebbero superare come volume delle transazioni i 60 miliardi, tra l'altro interessando sia portafogli di sofferenze vere e proprie, ma anche tipologie di non performing loan in cui sostanzialmente non si è una sofferenza, ma si è a rischio probabile di inadempienza, quindi quelli che potrebbero poi diventare sofferenze bancarie. E poi, segnala Pricewaterhouse, stanno arrivando sul mercato anche portafogli focalizzati su segmenti specifici di tutto un insieme di crediti in difficoltà. Ne parleremo appunto in attesa di ascoltare anche le dichiarazioni del ministro Padoan per quello che riguarda la parte delle banche e l'autorizzazione europea. In apertura invece il tema, anche questo molto europeo, che stiamo affrontando da giorni, mi riferisco alla posizione europea sui flussi migratori, che ha un côté, che ha un aspetto anche economico. Un aspetto economico oggi evidenziato, come ricordavano i nostri GR24, in primo luogo dal presidente dell'INPS Boeri, il quale ha detto: attenzione, chiudere le frontiere ai cittadini extracomunitari fino al 2040, quindi è un'ipotesi completamente diversa rispetto a quello di cui si ragiona in questi giorni su cosa fare, vista la ripartenza massiccia di sbarchi di immigrati. Dice Boeri: se chiudessimo fino al 2040, questo potrebbe costare alle casse dell'INPS 38 miliardi, perché avremo 73 miliardi in meno di entrate contributive e 35 miliardi in meno di prestazioni sociali destinate agli immigrati, con un saldo netto negativo di 38 miliardi. Perché questo? Perché è vero che spendi 35 miliardi di prestazioni, spende l'INPS, sociali per gli immigrati, ma a loro volta gli immigrati, chiaramente regolari, stiamo parlando di questo, versano 73 miliardi di contributi in un anno, e quindi la differenza è comunque a vantaggio delle casse dello Stato italiano. E poi l'INPS dà anche la fotografia dei pensionati, quanti sono sotto i 1000 euro, sono 5 milioni 800 mila pensionati, il 38% del totale, 1 milione di pensionati invece sopra i 3000 euro al mese come pensione. La crescita dei licenziamenti nel 2016 ha detto che non è legata, ha detto sempre Boeri, agli effetti di liberalizzazione dovuti al Jobs Act, perché piuttosto è legata alla nuova normativa sulle dimissioni online. Questo giustificherebbe l'aumento dei licenziamenti per giusta causa. Ancora, le premesse ci sono per introdurre il salario minimo nel nostro ordinamento, così appunto Boeri, mentre l'Istat fa sapere che la spesa della sanità in Italia è più bassa di quella della Gran Bretagna, della Francia e della Germania. Noi spendiamo 2.400 euro per abitante, Gran Bretagna, Francia e Germania spendono tra i 3.000 e i 4.000 euro per abitante. La spesa in percentuale al PIL invece ha valori vicini a Francia e Germania, vicino all'11%, è inferiore a quello è all'11% in Francia e Germania, al 10% del Regno Unito, al 9% del PIL in Italia e Spagna. Questo è l'altro grosso tema nel giorno in cui, appunto, dopo l'incontro dei ministri dell'interno di Francia, Germania e Italia con il commissario europeo Dimitris Avramopoulos, quello di domenica scorsa a Parigi, la Commissione è al lavoro per preparare alcune misure concrete, ci auguriamo, su dossier migranti. Lo ha annunciato uno dei portavoce della Commissione. E nel frattempo però c'è la tensione fortissima con il confine con l'Austria, dove l'Austria è pronta a schierare fino a 750 militari, quattro mezzi corazzati austriaci sono già al Brennero, la Farnesina ha convocato l'ambasciatore austriaco. Anche di questo parleremo in apertura, legandolo però al tema anche delle politiche concrete, ammesso che ve ne possono arrivare dall'Europa di politiche concrete verso l'Italia. Juncker oggi ha detto dimostreremo solidarietà all'Italia con i fatti. Con quanto la Commissione europea delibererà oggi in materia di migrazione, dimostreremo con i fatti che vogliamo rimanere solidali soprattutto con l'Italia. Parigi ha detto, per il Premier Edouard Philippe, accogliere sì, aiutare sì, subire mai. L'atteggiamento invece dell'Austria è molto diverso. Il numero degli immigrati e di rifugiati giunti in Europa via mare dall'inizio dell'anno ha comunque superato la soglia dei 100.000, quasi l'85%, quindi 85.000 è giunto in Italia, 9.200 in Grecia, 273 a Cipro e 6.400 in Spagna, con 2.200 persone morte in mare nello stesso periodo. È chiaro che questo dato, al di là delle polemiche, è abbastanza, diciamo, incontrovertibile e incontestabile. L'85% di 100.000 migranti sono tutti sulle coste italiane, e tra l'altro la Spagna, che spesso viene citata come esempio per quello che ha saputo fare, ho capito, ne ha avuti 6.400. Se noi avessimo avuto 6.400 sbarchi in questo anno, non staremmo neanche a parlare del tema, nel senso che noi abbiamo avuti 85.000, e c'è una leggerissima differenza. Le cifre non possono essere giocate e manipolate come si vuole. Di questo parleremo subito in apertura. Rapidamente le altre notizie in breve. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, e ricordo che il programma è trasmesso anche su Facebook e sul sito della radio via video. L'aggiornamento di borsa, come sempre a quest'ora, più 0,30% comunque Milano, invariata Parigi, invariata Francoforte, New York chiusa, invariata Londra. Milano va un po' meglio rispetto alle altre borse europee grazie a Saipem più 4,20, UBI più 4, BPER più 3, Banca BPM più 2%, Unicredit più 1,80, Fineco Bank più 1,5 come ricordati, e Banca Generali l'1% lo guadagna Azimut. Chi perde invece oggi sul listino: Ferrari meno 1,60, Telecom meno 1,30, Campari meno 1 come Terna e Prismian, e Snam, e ST Microelectronics meno 0,70 come Buzzi Unicem. La giornata oggi non riserva molto altro sul fronte economico, non è una giornata intensissima, diciamo così. Sul fronte banche segnalo che c'è anche la vicenda Cassa di Risparmio di Genova, che tra l'altro è il miglior titolo oggi, più 20%, ma è successa una cosa molto banale: è stato dato via libera a un aumento di capitale da 500 milioni e valorizzazione delle attività per 200 milioni, inclusa la cessione di di immobili, l'ha chiesto la BCE, il piano di rafforzamento patrimoniale, e è stato anche sospeso per eccesso di rialzo Cassa del Risparmio di Genova. Per quello che riguarda la, molti mi stanno scrivendo sul Monte dei Paschi di Siena, ne parleremo. L'Unione Europea chiede anche un tetto retributivo per i dirigenti corrispondente a 10 volte il salario medio dei dipendenti, e la cessione di un portafoglio di crediti deteriorati per 26 miliardi a condizioni di mercato, operazione finanziata parzialmente dal Fondo Atlante, per avere l'ok comunque di Bruxelles. Gli azionisti e i creditori subordinati del Monte dei Paschi si hanno fornito un contributo pari a 4 miliardi e 300 milioni di euro per limitare appunto il più possibile l'uso del denaro dei contribuenti. E adesso arriveremo anche ai dati INPS. Partiamo però subito col primo tema. Sì, qualcuno mi segnala della Catalogna e della vicenda del Qatar. Allora, partiamo dal Qatar. Il Qatar nel frattempo ha aumentato la sua produzione di gas del 38%, questo nel giorno in cui, dopo che il Qatar ha respinto le 13 richieste dei 4 paesi arabi che lo boicottano, si stanno valutando tutte le alternative esistenti per far pressione sul Qatar. C'è un vertice al Cairo e ci sono probabilmente anche sanzioni supplementari che saranno esaminate nell'incontro tra i paesi appunto che hanno deciso di attuare un boicottaggio nei confronti del Qatar, accusato di essere fonte, diciamo, di appoggio dell'estremismo islamico. Per quello che riguarda la Catalogna invece, allora, se il referendum sull'indipendenza della Catalogna annunciato per il 1 ottobre, ma che Madrid ha dichiarato illegale e ha detto che impedirà, ma insomma la notizia, se vincerà il sì, la Repubblica Catalana sarà proclamata nel giro di 48 ore. Questo afferma la bozza della legge sul referendum che oggi hanno presentato i partiti indipendentisti. Il testo sarà sottoposto formalmente al Parlamento di Barcellona, non fissa una soglia minima di partecipazione perché il risultato sia vincolante, cioè non c'è un quorum. Allora, primo tema, o meglio temi, perché qui stiamo ragionando del confronto, diciamo, con l'Austria, della decisione austriaca, a fronte però di dichiarazioni di Juncker assolutamente solidali con l'Italia. Dimostreremo la solidarietà con l'Italia, con quanto oggi la Commissione Europea delibererà, dimostreremo con i fatti che vogliamo restare solidali. Sì, per ora abbiamo visto solo parole e gran parole, ma fatti pari a zero. E la cosa interessante è che, questo la dice lunga, io non devo difendere né Tajani né Juncker, non me ne frega nulla, però il fatto che durante il discorso di Juncker vi fossero 30 europarlamentari, compresi quindi anche grosse assenze tra gli italiani, su 751 parlamentari, per affrontare il tema dei 100.000 sbarchi da inizio anno, ripeto, l'85% dei quali sulle coste italiane, beh, è abbastanza vergognoso per questo Europarlamento, che ci costa non poco. Tra l'altro questo ha mandato su tutte le furie il presidente Juncker, che ha definito ridicolo il Parlamento europeo, sfruttando le reazioni italiane, botta e risposta. Sentiamo questo passaggio. La parola al Presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, le Parlement européen est ridicule, très ridicule. Je salue ceux qui se sont donné la peine d'être en salle. Mais le fait qu'une trentaine de députés assises à ce débat démontrent à suffisance que le Parlement n'est pas sérieux. The Parliament is totally ridiculous. I want to pay tribute. La prego, signor Presidente, di avere un atteggiamento più rispettoso nei confronti. Je vous en prie, monsieur le Président. Vous pouvez critiquer le Parlement, mais c'est pas la Commission qui doit contrôler le Parlement, c'est le Parlement qui doit contrôler la Commission. Je vous en prie, s'il vous plaît. There are only few members in the plenary to control the Commission. You are ridiculous. I wanted to pay tribute to the Maltese. Signor Presidente, je vous en prie d'utiliser un langage différent. Nous ne sommes pas ridicules. Come faccio, chi conosce questo programma conosce la mia opinione, che non conta nulla, su Juncker, la sua insipienza. Oh, ma devo dire che stavolta ha ragione. Dopodiché ha ragione Tajani nel dire la prego di non utilizzare un linguaggio del genere, usi un linguaggio più appropriato, per carità. Però, voglio dire, Juncker viene per parlare del tema italiano e si trova 30 deputati su 750, allora non lo dice Juncker. Tajani ha fatto bene nel suo ruolo di Presidente del Parlamento Europeo, per carità, a difendere i parlamentari sul principio, però che sia ridicolo un Parlamento strapagato da tutti i contribuenti, quello famoso che poi si riunisce a Strasburgo con tutte le vagonate, l'abbiamo raccontato mille volte quanto costa questa Unione Europea. Insomma, 30 deputati su 750, avremmo detto la stessa cosa se, come è successo più di una volta, vi fossero stati poche decine di deputati nel nostro Parlamento a fronte del numero dei 630 parlamentari. Allora, poi uno può discutere se ridicule fosse l'espressione giusta o no. Insomma, era pesantemente incavolato Juncker. E la Commissione Europea ha sollecitato gli altri Stati membri a contribuire maggiormente al Fondo per l'Africa, a completare il contributo da 2,6 miliardi europei. Di euro europei da dare a questi paesi, oltre a mobilitare le capacità per sostenere il rimpatri di migranti irregolari dall'Italia. E poi ha chiesto all'Italia di invece preparare, in consultazione con la Commissione Europea, un codice di condotta, in questo ha ragione Bruxelles, sull'ONG che effettua un'attività di ricerca e soccorso. Cioè, decidiamo noi quali sono le ONG, ma soprattutto come si devono comportare. Possono arrivare fino al limite delle acque territoriali libiche e attendere praticamente i migranti lì, magari delle volte anche segnalando che sono lì, oppure l'attività di soccorso deve essere fatta in mezzo al mare quando si registra una segnalazione? Parliamo di questo con il nostro Sergio Nava, che sta seguendo da oggi l'intero sviluppo, da un lato Bruxelles, dall'altro Vienna, o meglio confine col Brennero, e partiamo anche da qui. Sergio, buonasera. Sì, ciao, buonasera Sebastiano. Partiamo dalla Commissione Europea, perché tu poc'anzi accennavi ad alcune delle misure. Ti chiedevi tu stesso se queste poi fossero misure concrete, quelle che ha presentato oggi la Commissione Europea. È di fatto, come dire, una lista della spesa, le cose che si possono fare adesso senza mettere mano a trattati o regolamenti o direttive. È una lunga lista da spesa, appunto i 35 milioni all'Italia per la gestione della migrazione, 46 alle autorità libiche, piena mobilitazione delle agenzie europee, controlli sulle frontiere meridionali, nuovo sistema di reinsediamento e anche lo sprone ai Paesi membri a ricollocare, accelerare i ricollocamenti dall'Italia. Questi, lo sappiamo, non funzionano per nulla, e anche a accelerare la riforma del sistema di Dublino sull'asilo, perché anche questo è un sistema politico, certo, che ormai fa acqua a tutte le parti. E poi ci sono anche impegni chiesti all'Italia, uno l'hai detto tu, il codice condotta per l'ONG e poi l'attuazione rapida della legge Minniti per creare capacità supplementari nei centri di crisi e altre cose, insomma, che riguardano appunto la gestione dei migranti. Quindi un po' una lista da spesa, ma lo ha detto lo stesso vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans: noi facciamo quello che possiamo, poi il problema è che tutto va agli Stati membri, al Consiglio europeo. Giovedì si riuniranno quelli dell'interno a Tallinn, ricordiamo, però è un vertice informale, quindi tecnicamente non si prendono poi decisioni in qualche modo vincolanti a livello legislativo, e lì insomma si va un po' nell'imbuto. Passando invece all'Austria, cosa è successo? Ricordiamo che in Austria mancano 3 mesi alle elezioni, c'è il rischio di una maggioranza di estrema destra, FPÖ, e quindi un po' gli altri due partiti attualmente sono in una grande coalizione ormai. Alla fine, socialdemocratici e popolari stanno un po' inseguendo l'estrema destra sui temi a lei cara, e nonostante ci sia una mancanza di fatto di flusso di immigrati al Brennero, hanno deciso di preallertare la frontiera mandando 4 mezzi corazzati e preallertando 750 militari che sono dispiegabili nel giro di tre giorni. Sentiamo a proposito cosa ha detto il ministro della difesa austriaco Hans-Peter Doskozil alla radio pubblica. Wir kennen die Situation in Italien, die Anlandungen steigen. Duscosi l'ha detto, conosciamo la situazione in Italia, gli approdi aumentano, tutti i cittadini austriaci si aspettano che non si ripetano i flussi del 2015, vogliamo mandare un chiaro segnale a Bruxelles, da oltre un anno abbiamo presentato proposte su come risolvere il problema immigrazione e ora si ripresenta coi paesi lasciati soli nell'affrontare appunto il problema. Se la situazione in Italia si dovesse aggravare ci faremo trovare preparati e decideremo per i controlli alla frontiera con l'Italia, così come ha fatto con noi la Germania in passato, dice Doscozil. Solidali lo siamo stati, abbiamo mostrato la nostra solidarietà in maniera superiore alla media, ma non c'è possibile farlo ogni anno. E quindi Doscozil in qualche modo butta anche lui la responsabilità sull'Unione Europea, dice noi solidali lo siamo stati, però adesso chiudiamo le frontiere sostanzialmente. E questa è la posizione austriaca. Tu ricordavi giustamente che l'Austria va a elezioni, questo l'ha spiegato molto bene anche il presidente della provincia autonoma di Bolzano con Simone Spezia oggi effetto giorno. Attenzione che c'è una componente elettorale interna molto forte, per cui con l'estrema destra che avanza devono anche dare il segnale che non saranno invasi dagli immigrati italiani intesi come che sbarcano in Italia, ci mancherebbe. E questo però la dice lunga su un copione che abbiamo già visto 2 anni fa. Lì il problema erano i siriani soprattutto, in cui si chiudevano ad omino le frontiere e con il rischio che tutto restasse in Grecia, perché poi Serbia le chiudeva, la Croazia le chiudeva, l'Austria pure, Repubblica Ceca, Ungheria, idem, e praticamente la tentazione o la tendenza è di lasciarli là dove sono sbarcati. Sì, ricordiamo anche che insomma in Francia già i controlli sono stati ampiamente rafforzati al confine della Liguria, e la Svizzera molto più nel silenzio, però c'è un'agenzia di oggi, una notizia di oggi dice che anche gli svizzeri hanno deciso di aumentare i controlli al confine con Piemonte e Lombardia. Sì, e questa è la cosa paradossale che sembra sfuggire o meglio forse non sfugge nemmeno a livello europeo, e cioè che se tu ragioni in questo modo tutto il problema ce l'ha il paese dove questi sbarcano, e questa non è solidarietà europea. Molti mi chiedono ma quanti erano i parlamentari italiani presenti di questi 30, adesso andiamo a fare una verifica, sicuramente erano molto pochi rispetto al numero di parlamentari. Noi ne abbiamo circa quasi un'ottantina, per cui insomma, quindi ammesso che fossero anche stati la metà, fossero stati tutti saremmo a un terzo, ma anche la metà un numero assolutamente insufficiente. Devo dire che, ripeto, vedo molti messaggi, capisco che Tajani chieda rispetto per l'istituzione, però ha ragione Juncker stavolta, si può dire? Non mica male, delle volte ha ragione anche Merkel, ha ragione anche Weidmann, e stavolta ha ragione Juncker. È ridicolo che il tema più delicato in questo momento a livello di Unione Europea, che cosa succede alle frontiere dell'Unione Europea, con un paese che ha il peso dell'Italia, dovrebbe avere il peso dell'Italia, ma con una reazione a catena su tutti gli altri paesi, venga affrontato quando parla Juncker con 30 deputati su 750. Sono ridicoli. Poi voglio dire, un domani, sapete che chi vi parla ha sempre creduto in un'idea di Europa diversa da questa, ma in Europa poi se diciamo l'affetto nei confronti delle istituzioni europee percepite solo come dei ragionieri interessati a calcolare se il deficit è al 2,8, 2,7, 2,2, 2,1, a far rispettare fiscal compact recessivi e quant'altro, e poi non riescono a fare scelte politiche vere di richiamo alla responsabilità dei vari paesi, beh, non bisogna poi lamentarsi se diciamo l'affetto nei confronti di questa gestione europea è ai minimi storici. Grazie intanto a Sergio Nava. Noi adesso andiamo sul meteo, poi cerchiamo di capire invece che cosa ha voluto dire il presidente dell'INPS Boeri facendo un calcolo da qui al 2040 sugli immigrati irregolari. Io non so insomma come sia uscita sta cosa, è chiaro che in questo periodo di tema su sbarchi di immigrati, sbarchi sono tutti irregolari, non è che siano regolari, introdurre il tema di quanto verrebbe meno sui contributi pensionistici e previdenziali se non avessimo immigrati regolari, a mio avviso si presta da un punto di vista mediatico ha un po' di confusione, perché uno tende a confondere gli sbarchi irregolari con tutti invece gli immigrati che regolarmente col permesso di soggiorno lavorano in Italia, pagano le tasse in Italia e pagano appunto i contributi in Italia. A questi ultimi faceva riferimento Boeri con un calcolo da qui al 2040. Il punto è che con queste tensioni europee arrivarci al 2040. Comunque dopo il meteo e la pubblicità, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Abbiamo guardato tanto al gettito contributivo che alle spese associate a prestazioni destinate agli immigrati. Pensioni, prestazioni a sostegno del reddito, assegni al nucleo familiare, invalidità civile. I risultati della nostra simulazione a prezzi costanti possono essere riassunti in tre cifre. Nei prossimi 22 anni avremmo 73 miliardi in meno di entrate contributive e 35 miliardi in meno di prestazioni sociali destinate agli immigrati, con un saldo netto negativo di 38 miliardi per le casse dell'INPS. Insomma, una manovrina in più da fare ogni anno per tenere i conti sotto controllo. Abbiamo bisogno degli immigrati per tenere in piedi il nostro sistema di protezione sociale. Oggi gli immigrati offrono un contributo molto importante al finanziamento del nostro sistema di protezione sociale e questa loro funzione è destinata a crescere nei prossimi decenni man mano che le generazioni di lavoratori autoctoni che entrano nel mercato del lavoro diventeranno più piccole. La quota degli under 25 che cominciano a contribuire all'INPS è passata dal 27,5% del 96 al 35% del 2015. In termini assoluti si tratta di circa 150.000 contribuenti in più ogni anno. Compensano il calo delle nascite nel nostro Paese, la minaccia più grave alla sostenibilità del nostro sistema pensionistico. Abbiamo perciò bisogno degli immigrati e soprattutto di contribuenti immigrati. Impedire loro di avere un permesso di soggiorno quando sono in Italia è la strada sbagliata, perché li costringe al lavoro nero e li spinge nelle mani della criminalità. Al contrario, le regolarizzazioni sono state il più potente strumento di emersione del lavoro nero in Italia sin qui attivato e hanno avuto un effetto duraturo sul comportamento lavorativo degli immigrati. 4 lavoratori regolarizzati su 5 erano contribuenti attivi del nostro sistema di protezione sociale anche 5 anni dopo la loro regolarizzazione. Allora, vedo molti messaggi su questo. Dunque, premetto, io sono d'accordissimo, l'abbiamo detto molte volte, ma non è che bisogna essere d'accordo, no. Ce lo dice l'Istat e anche l'INPS. Il calo continuo delle nascite in Italia, abbiamo fatto una puntata 3 settimane fa, viene in parte riequilibrato dalle maggior nascite che si hanno in chi è extracomunitario, è arrivato in Italia e lavora con permesso regolare, e comunque anche dai flussi di regolarizzazione. Alcuni continuano a scrivere: ma perché non faccia con la disoccupazione che abbiamo? Perché non facciamo lavorare gli italiani? Perché evidentemente certi lavori con quei salari non li vogliono prendere gli italiani. Qualcun altro mi dice: ecco perché in questo modo si abbassa il salario offerto. Sì, ho capito, però vi faccio notare che in realtà tutti sti margini per gli aumenti salariali io non li vedo, anche in lavori in cui non ci sono assolutamente extracomunitari ma ci sono solo italiani autoctoni. Il problema è, secondo me, ripeto, di carattere mediatico, e cioè se tu con queste polemiche, con questa tensione, con i 100.000 sbarchi che non sono gli immigrati, voi hai fatto un ragionamento che è ineccepibile dal punto di vista del ragionamento, cioè dice attenzione che le regolarizzazioni fanno poi assumere comportamenti corretti. A distanza di 5 anni noi abbiamo visto che venivano versati ancora i contributi di chi era stato regolarizzato, c'è un'integrazione. La somma tra quanto spendiamo, ossia 35 miliardi di prestazioni sociali destinate agli immigrati, e quanto abbiamo di entrate come contributi pagati dagli immigrati, 73 miliardi, vorrebbe dire che se noi chiudessimo le frontiere da qua al 2040, da qui fino al 2040, avremmo sostanzialmente 38 miliardi di euro in meno, e quindi un paio di miliardi all'anno di manovrina aggiuntiva. È un'ipotesi, nessuno vuole chiudere le frontiere da qua al 2040. Boeri l'ha fatto per far capire quanto è il contributo sui contributi, scusatemi il gioco di parole, degli immigrati regolari. Il rischio è che in questo momento venga letta come una giustificazione, lo dico perché, degli sbarchi, come una giustificazione del fatto che, come scrivono alcuni, apriamo le porte a tutti. Davide Colombo, del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Adesso andiamo agli altri temi toccati da Boeri sulle pensioni e quant'altro. Lo vedi anche tu questo rischio? Cioè che forse, a meno che non l'abbia fatto volutamente apposta, ma forse non era il giorno migliore o la settimana migliore per parlarne? Diciamo che il presidente dell'INPS ha fatto un ragionamento a un certo punto in cui ha detto: chi ha la governance di questi grandi enti economici che intermediano grandi masse di spesa e di entrate dello Stato devono avere uno sguardo un po' più lungo, e quindi ha fatto un ragionamento che va al di là, diciamo, dell'emergenza. Come dicevi tu prima, non stiamo parlando dei migranti irregolari, ma stiamo parlando dei migranti che vengono regolarmente nel nostro paese a cercare lavoro e lo trovano. Se è vero, come è vero, ce lo dice l'Istat, che abbiamo 2 milioni e oltre 100.000 occupati migranti stabili da diversi anni, e sono circa il 10% della forza lavoro occupata. Quindi stiamo parlando di un pezzo del nostro mercato del lavoro che si è strutturato, che copre evidentemente una domanda di impiego che i nostri connazionali non rispondono evidentemente. Quindi la simulazione che è stata fatta è un esercizio aritmetico molto semplice, insomma, e che evidenzia come dal punto di vista della sostenibilità del sistema, d'altra parte la sostenibilità del sistema previdenziale sta anche nelle tavole di medio e lungo periodo della Ragioneria Generale dello Stato, che stima tra le come dire, esogene necessarie per sostenere appunto questo livello di spesa una crescita del PIL di un punto e mezzo l'anno, un'inflazione attorno al 2%, un tasso di disoccupazione attorno al 6% e appunto un arrivo circa netto di 200.000 lavoratori dall'estero. Questo è il quadro in cui si muove il nostro allora, sistema previdenziale. Allora, sì, vedo molti messaggi. Attenzione. Io posso dire che, a mio avviso, Boeri oggi è intervenuto su un tema che rischia di fare confusione tra immigrati irregolari, perché qua è ovvio che con le immagini, con gli sbarchi, o meglio con i soccorsi, qualcuno mi contesta anche che io dica sbarchi, per me non sbarcano più, li andiamo a prendere direttamente noi, vabbè, ma qui stiamo parlando di non italiani autoctoni, possono essere anche australiani, sudafricani, non sono gli immigrati che vediamo tipicamente, diciamo, venire salvati alle coste libiche, possono essere tutte le filippine, le indonesiane, le centroamericane, pensate al mondo delle badanti, delle babysitter e quant'altro, non c'è solo quella cosa lì, lo dico a chi sta scrivendo frasi anche molto pesanti su questo. È ovvio che nel momento in cui tu dici abbiamo bisogno, qualcun altro mi risponde, beh, allora prendiamone altri 100.000, facciamo 200.000 all'anno. Non è questo che intendeva dire Boeri. Sul fatto che ci sono i 4 milioni di italiani disoccupati, facciamo lavorare loro. Guardate, qui però bisogna essere molto onesti. In molti casi non ci sono italiani, giustamente, uno mi dice perché hanno studiato, aspirano a un lavoro e una qualifica più alta, tutti i motivi che volete, ma non ci sono italiani che vogliono fare quel lavoro. Cioè, il tema delle badanti e delle babysitter straniere non l'ha imposto Boeri o un piano pluto giudaico massonico, è avvenuto nelle cose perché non si trovavano, diciamo, babysitter o badanti o assistenti domestiche o colf italiane. Uno mi può dire, giusto, vacci tu a fare, benissimo, sto solo dicendo che questo è dato di fatto, non diciamo sempre la storiella, i contributi li avrebbero versati anche gli italiani, perché se gli italiani quei lavori non li vogliono fare, i contributi li verserà qualcun altro che li fa sti lavori. Questo non, cioè, è assurdo come ragionamento, per favore. Altra cosa è dire che era il giorno giusto oggi per parlare, diciamo, degli immigrati irregolari. Secondo me il rischio di Boeri di aver fatto un torto alla platea a cui lui faceva riferimento, cioè tutti i vari immigrati che regolarmente lavorano in questo paese e svolgono funzioni anche importanti. Davide, dopo vediamo il resto del rapporto INPS sia sul salario minimo che sui pensionati, quali sono i due estremi delle pensioni sotto i 1.000 euro e quelle sopra i 3.000 euro. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Di nuovo in diretta, io immaginavo che sarebbe andata a finire così, e infatti la polemica si sta spostando su questo. Allora, qualcuno mi dice, ma come qui a Como, dov'è che mi ha scritto, ci sono 1.000 extra, con qui a Lecco ci sono migliaia di africani che non fanno una mazza. Non sta parlando di quelli, diciamo, sbarcati, salvati, sta parlando di chi è regolarmente assunto e quindi con permesso di soggiorno e versa i contributi, ha fatto il calcolo dei contributi. Magari lo cerchiamo anche Boeri a questo punto, perché uno, due, qualcun altro mi dice, ma vada lei con la laurea, lei lo farebbe con la laurea a 600 euro al mese? Dico, ho detto probabilmente no, infatti non sto criticando gli italiani che non lo fanno, ma le posso girare la domanda. Ma allora, quale famiglia potrebbe... A parte il fatto che badanti, colf e babysitter non mi sembra che abbiano, quando sono assunte, quindi parlo della parte regolare, abbiano stipendi così bassi, ma quello che vedo io, insomma, si arriva tranquillamente a 1.000, 1.200, 1.300 euro. Ma se la stessa famiglia che mi, o la stessa persona che mi fa questo discorso, poi magari quando ha bisogno di una badante o di una babysitter per suo figlio o di una colf regolare, sto parlando di contratti regolari, e forse non arriva a pagarla 2.000-2.500 euro al mese, e allora cercherà quella che offre un servizio analogo, regolare, versando i contributi, la tredicesima, le malattie, le ferie godute, con una tariffa un po' più bassa, che non sono bassissime, non sono basse, sono molto più basse e vergognose se vogliamo fare gli italiani. Gli stipendi, o meglio, quello che viene offerto agli architetti, agli avvocati in studi prestigiosi, agli aspiranti notai, aspiranti commercialisti, che vengono sfruttati e sottopagati da fior fior di avvocati, commercialisti, notai, architetti e quant'altro, perché adesso fatela dire tutta, magari con studi importantissimi e con fatturati milionari, per cui vediamo chi sfrutta chi. A mio avviso ci sono tanti bei liberi professionisti italiani che sfruttano le competenze dei laureati pagando una cosa indegna, perché 300-400 euro è indegno se uno lavora nel tuo studio, no? Allora, dopodiché vediamo di capirci, sono le stesse famiglie italiane che cercano un lavoro di quel tipo cercando di spendere il meno possibile. Però sapevo che saremmo finiti qua, perché Boeri parla di una cosa ma la nostra attenzione è tutta su un'altra, giustamente. Comunque, Davide Colombo, introdurre il salario minimo, le premesse ci sono, dice Boeri, che in questo caso va a occuparsi di un tema politico, come ogni tanto gli capita, e poi dice, attenzione, sottolinea come ci sono 5.800.000 pensionati sotto i 1.000 euro, il 37,5% totale, in calo sul 2015, 1.000.000 di pensionati sopra i 3.000 euro, e poi dice, il blocco dell'adeguamento dell'aspettativa di vita per la pensione di vecchiaia non è una misura a favore dei giovani. I contratti a tempo determinato trasferiscono troppa parte del rischio di impresa sul lavoratore, potendo essere rinnovati ben 5 volte nel giro di 3 anni. Preoccupa soprattutto l'intreccio fra precarietà e copertura previdenziale, come abbiamo avuto modo di documentare e di segnalare a tutti gli interessati con strumenti come la mia pensione e la busta arancione. Frequenti episodi di non occupazione all'inizio della carriera lavorativa hanno effetti molto rilevanti sulle pensioni di future di chi è nato dopo il 1980 ed è perciò interamente assoggettato al regime contributivo. Questo rischio potrebbe essere in parte coperto fiscalizzando una componente dei contributi previdenziali all'inizio della carriera lavorativa per chi viene assunto con dei contratti a tempo indeterminato. È una misura che, al contrario di molte di quelle proposte nella cosiddetta fase 2 del confronto governo-sindacati sulla previdenza, opererebbe un trasferimento dai lavoratori più anziani e dai pensionati verso i giovani e assicurerebbe sin d'ora uno zoccolo minimo di pensione a chi inizia a lavorare, oltre ad incoraggiare le assunzioni a tempo indeterminato. Al contrario, bloccare l'adeguamento dell'età pensionabile agli andamenti demografici non è affatto una misura a favore dei giovani. Allora, guardate, continuano a scrivere i miei ascoltatori, lei parla come uno che la pancia è piena, va bene, io però ne leggo un altro, che mi, di un imprenditore. Allora, la badante, ne leggo alcuni. La badante di mia madre è indiana, prende 1.450 euro al mese. Ho cercato per 4 anni in italiana senza trovarne una. La signora ha ferie, malattie, pasti e alloggio. Mi ha scritto un imprenditore, guardi, ho dovuto... Dov'è che lo voglio beccare? Porcaccia la miseria, che ne stanno arrivando a centinaia. Tu Davide non te ne andare, resta con noi. Vabbè, adesso riprenderò anche tutti gli imprenditori che mi stanno scrivendo che non riescono a trovare italiani per il loro lavoro, e questo è il tema degli immigrati irregolari, che ripeto non sono solo quelli che arrivano dall'Africa. Dopodiché, Davide, ti chiedo ancora un minuto di pazienza, perché dopo il GR24 mi devi aiutare a capire perché Boeri dice che il blocco dell'adeguamento dell'aspettativa di vita per la pensione vecchiaia non È una misura a favore dei giovani. Qualcun altro mi dice ma non poteva aspettare, prima di esprimere il suo pensiero, la fine della tensione sugli sbarchi? Sì, secondo me sì, questo è il problema del mediatico e quindi del tempismo della comunicazione di Boeri di oggi. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Dopo GR24 Focus Economia. Pour me a taste of something good. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Ho ritrovato il messaggio: un'azienda metalmeccanica in forte espansione, ho assunto 40 extra comunitari negli ultimi 2 anni perché gli italiani non vogliono fare questo mestiere per 1.250 euro, e questo è uno oltre a quelli dei tanti che stanno arrivando. In provincia di Bologna non si trovano più tornitori, fresatori, rettificatori eccetera. Per fortuna a volte si trova qualche extra comunitario, pakistani, indiani, marocchini. E non è vero che li sottopaghiamo. Questo è un tenore dei messaggi. E poi ci sono tutti gli altri che dicono: ma che è sta roba? Non è vero. Ma allora, sul tema di Boeri, chiaramente stiamo ancora ragionando su quanto ha detto Boeri. Davide Colombo, per chiudere invece sul resto dell'intervento di Boeri, dopo, anche se era immaginabile che tutto si sarebbe concentrato su quanto ci costerebbe chiudere le frontiere da qui al 2040, ma perché poi il 2040? C'è un calcolo puramente teorico che lui fa? Ma è stata proposta una simulazione su questo orizzonte temporale, mettendo insieme, appunto, è un esercizio, diciamo, di tipo aritmetico che tiene conto dei versamenti contributivi, immaginando appunto ingressi attorno ai 150.000 e uscite, perché poi appunto bisogna sempre tenere conto che il nostro è un paese in cui, a fronte di un certo flusso di ingresso, c'è anche un flusso di uscita. Quando l'anno scorso il presidente dell'INPS aveva fatto un ragionamento diciamo sul, tra virgolette, dono che i migranti da lavoro hanno finora lasciato, oltre un punto di PIL, diciamo, nel nostro equilibrio di conti previdenziali, si riferisce al fatto che molti di questi lavoratori poi lasciano il paese prima di maturare i requisiti per la pensione e quindi non godono delle prestazioni a cui si sarebbero avvicinati ad avere i requisiti. Quindi anche da questo punto di vista la simulazione prova a fare un esercizio. Un'altra data simbolo che ha evocato Boeri è il 2060. Lui dice: non prima di quella data comincerebbero a percepire una prestazione previdenziale questi lavoratori migrati, che sono di generazioni molto, molto giovani, appunto quelle che citavi tu prima, nel settore della manifattura, ma soprattutto molto in particolare per fare lavori domestici. Oltre 1 milione sono le donne che lavorano nel nostro paese, che vengono anche da diversi paesi dell'Unione Europea. Sì, tra che fanno lavori, stiamo parlando non solo di paesi, certo, extracomunitari, certo, ma anche di paesi comunitari. Vabbè, la chiusura delle frontiere però sarebbe, certo, impossibile, nel senso che certo, se quando Boeri parla di chiudere le frontiere si riferisce solo alle frontiere comunitarie, chiaramente. E va bene, si fa per dire, perché la polemica comunque si è innescata. Vado rapidamente nel ringraziare. Ah sì, scusami, l'ultimo passaggio era quello che ho lasciato in sospeso nell'ora precedente, cioè quando Boeri dice: attenzione, lo stop dell'adeguamento all'aspettativa di vita non è una misura a favore dei giovani. Davide. Questo è un tema molto importante, perché è anche oggetto del confronto tra governo e sindacati su questa cosiddetta fase 2 dell'insieme di riforme previdenziali che si vorrebbero adottare. È uno stabilizzatore automatico, quello dell'adeguamento alla speranza di vita, che alza il requisito per il pensionamento di vecchiaia. Noi lo abbiamo nel nostro sistema in vigore dal 2010. Teniamo conto solo del fatto che da allora nelle raccomandazioni europee non viene più citato il nostro sistema pensionistico come, sì, uno dei sistemi vulnerabili dell'equilibrio complessivo della nostra finanza pubblica. è un adeguamento automatico per in via amministrativa, sì. È stato voluto così appunto dal governo del 2009, è in vigore dal 2010. La forza di questo stabilizzatore automatico insieme a quello all'altro stabilizzatore, cioè i coefficienti di trasformazione, quelli che fanno il calcolo del trattamento contributivo, determina appunto una tenuta di lungo periodo della spesa previdenziale. Per questo è importante che non venga toccato, invece dal fronte sindacale c'è una richiesta proprio a metterci mano e a farne oggetto di confronto almeno su base triennale. Allora, grazie a intanto anche Davide Colombo. Vedo altri messaggi che dicono: va bene, ma se uno non trova fresatori, il messaggio dell'imprenditore di Bologna, 1.250 euro, la legge del mercato vorrebbe dire devi alzare il prezzo dell'offerta, 1.600, 1.700, 1.800. Sì, dovete spiegare all'imprenditore che ha scritto, però, perché vedete dove poi è un circolo vizioso, perché l'imprenditore che ha scritto riesce a stare dentro con la concorrenza che ha a livello internazionale offrendo, poniamo, 2.000 euro per un fresatore, o riesce a starci dentro offrendo 1.300 euro per un fresatore? E la domanda, chi la fa, o meglio il salario, chi lo determina, l'offerta o la domanda? È una bella storia questa, perché capisco benissimo che se lui dicesse 2.000 euro, a parte che il fresatore lo deve aver formato, fresatore, e qui c'è il problema di dove sono andati a studiare i ragazzi in questi anni, ma ammesso che, io non so se il problema sia che nessuno vuole fare il fresatore magari da giovane all'inizio della sua carriera a 1.250 euro, temo che il problema sia che non ci siano fresatori italiani giovani e che lui vada su mercati altri. Dopodiché può offrire di più, certo che nella legge della domanda e dell'offerta tu cerchi di offrire il meno che puoi e l'altro cerca di spuntare il massimo che può, non è che però l'offerta di salario possa essere tanto elastica. Questo imprenditore che ha scritto dovrà stare sul mercato, avrà fatto due conti, deve tirare fuori un margine per creare un po' di utile e pagare i dipendenti che già comunque. Se non riesci a starci dentro, che cambi mestiere e vado a fare il fresatore con l'imprenditore, vabbè, sono tutte cavolate. Però nessuno mi sta rispondendo su quanto vengono pagati i laureati anche specializzati italiani dai liberi professionisti italiani per lavorare come se fossero, diciamo, regolari a 400, 600, 800, cioè non vedo messaggi delle libere professioni, e lì sono italiani su italiani, Vabbè, andiamo sul tema invece delle banche italiane, dove questi sono solo temi nostri, nel senso che Monte dei Paschi, l'operazione ha avuto l'approvazione dell'Unione Europea, sì ad aiuti di Stato per 5,4 miliardi di euro, è iniziata e si è anche conclusa, ho ben visto la conferenza stampa del Ministro dell'Economia Padoan, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Oggi tra l'altro la borsa, come dicevo, è piattissima in Europa, alla fine meno 0,40 a Parigi, meno 0,30 a Francoforte, meno 0,30 anche Londra, chiusa l'America per l'Independence Day, 4 di luglio, UBI Banca più 4, Saipem più 3,70, Bipper più 3,40, Banco BPM più 1,70 come ricordati, e UniCredit Fineco Bank più 1,50 come banca generali. Pronto posto invece Ferrari meno 2, Telecom meno 1,70, Prismia meno 1,5 come Campari, l'1,30 lo perde Terna, l'1,20 stima Microelectronics, 1% Exor, Snam meno 0,90%, tra l'altro Saipem è ancora la migliore oggi assieme a UBI Banca. Beh, UBI, Bipper vanno bene, ma va molto bene dopo il piano di aumento di capitale. Cassa di risparmio di Genova più 23%, dicevo Saipem si avvantaggia delle commesse in Arabia, ancora il titolo viene premiato. Atlantia, dopo l'ok del Consob spagnolo all'offerta sulle autostrade spagnole, si chiamano Abertis, guadagna lo 0,30%, per il resto deboli le utilities come abbiamo visto in tutta Europa. Il migliore appunto è Carige più 23%, il peggiore Invest meno 8,33%, poi Club meno 5,60%, tra i titoli che vanno molto bene segnalo anche Italia Online più 9,50%. Padoan e le sofferenze italiane intese come i crediti in sofferenza italiana, c'è il nostro Vincenzo Miglietta che ha seguito la conferenza stampa. Buonasera Vincenzo. Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori. E qua invece in studio Marco Ferrando e Luca Davide, Sole 24 Ore. Buonasera Luca, ormai a forza di leggere doppie firme confondo anche i nomi. Buonasera, buonasera anche a te Luca. Il traffico e poi ascoltiamo da Vincenzo Miglietta che cosa ha dichiarato il ministro Padoan sull'operazione Monte dei Paschi, ma anche sulle banche venete. Focus Economia. Allora, Vincenzo Miglietta, ministro Padoan, conferenza stampa, c'era anche il numero uno del Monte dei Paschi, Morelli, e il presidente Falciai. Ha annunciato Padoan che entro metà del 2018 verranno cedute dal Monte dei Paschi 28 miliardi di sofferenze bancarie, quasi, cioè, quasi tutte le sofferenze che ancora sono in pancia. Sì, è così, 28 miliardi di sofferenze che fa il paio, Sebastiano, poi con l'altro impegno di Monte dei Paschi, ovvero quello di riorientare il proprio business in 5 anni verso le piccole e medie imprese, ma la conferenza stampa qui al Ministero dell'Economia è servita sì per dare questi numeri molto importanti, ma soprattutto mi è sembrato da parte del Ministro dell'Economia Padoan per dare un messaggio che comunque il Paese è uscito dal momento nero delle crisi bancarie. Quindi prima una settimana fa l'intervento sulle banche venete, ora il via libera da parte dell'Europa ad MPS, e lo stesso Padoan ha detto che questa è una decisione che dà proprio certezza al nostro sistema. E se vuoi possiamo ascoltare questo passaggio. L'esborso complessivo dello Stato sarà di 5,4 miliardi di euro. Lo Stato ne sottoscrive direttamente 3,9 e il resto dell'aumento di capitale deriva dalla conversione dei titoli subordinati detenuti da soggetti istituzionali. Vorrei che fosse chiaro che si tratta di un risultato estremamente importante per la banca, ma direi per tutto il sistema bancario italiano, ed è un ulteriore elemento di svolta dopo l'accordo ottenuto più o meno una settimana fa per le banche venete. Il piano di ristrutturazione di Banca Monte Paschi di Siena sarà discusso in dettaglio domani in una conferenza stampa della banca, dell'amministratore delegato, del presidente, che sono qui con me, quindi per adesso non mi ci soffermo, però ricordo che questo piano dà certezze, dà un orizzonte credibile di sostenibilità di una banca che avrà un livello di capitale molto importante. È un piano che implica l'eliminazione delle sofferenze. La banca entro la prima metà del 18 cederà quasi per intero l'ammontare delle sofferenze per un valore lordo di più di 28 miliardi. Ci saranno accantonamenti sui crediti deteriorati e il piano si baserà su stime prudenziali dell'economia, quindi sarà un piano sostenibile e prudente. Vincenzo, adesso arriviamo anche al commento di Luca Davi, non scaricati i costi sui contribuenti, faremo un uso limitato delle risorse pubbliche. Ha fatto un accenno anche alle banche venete però, il ministro. Un accenno con polemica alle banche venete, un accenno alle polemiche del mondo politico, soprattutto a parte del PD che critica l'intervento e ha detto: sono fiducioso dell'intervento del Parlamento, ma ricordo che non c'erano alternative a quanto abbiamo deciso. Certo, c'è un numero impressionante di emendamenti, come sapete bene chi di voi segue l'attività parlamentare, questa non è una novità. Gli emendamenti sono spesso, anche in decreti di tutt'altra natura, molto numerosi. Continuo a dire che ho la massima fiducia nella saggezza del Parlamento nel dare via libera a un decreto che è importante per le banche, è importante per il Paese. E poi appunto entro luglio la quota del Monte dei Paschi Mano Tesoro dopo la ricapitalizzazione preventiva sarà del 70%, 3,4 miliardi l'aumento, 1,5 miliardi per l'acquisto dei bond subordinati in autunno, massima fiducia negli attuali manager, tra l'altro Marco Morelli ha detto al ministro delegato che non sono previsti licenziamenti nel piano di ristrutturazione. E poi con il salvataggio del Monte dei Paschi, ha detto il presidente Falciai, si conclude l'annus horribilis per la banca. Allora, Luca Davi, a te il commento, caratteristiche, da quanto emerso, visto Via Libera d'Europa, di questo ne ringraziamo intanto Vincenzo Miglietta in collegamento con noi proprio da Roma, dove il ministro Padoan ha appena concluso la sua conferenza stampa. Dicevo, caratteristiche di questo aumento e invece sulle banche venete mi sembra di capire che il governo sia, come immaginabile, appeso agli emendamenti. Sì, vero tutto, soprattutto il fatto che con questa mossa, con questa approvazione da parte di Bruxelles al piano alla ricapitalizzazione precauzionale di MPS, si toglie la peggiore forse incognita che ancora gravava sul sistema bancario italiano e, come ha detto anche il ministro Padoan, il timore qua che andasse ben oltre solamente l'Italia come elemento di rischiosità. Pensiamo che con 26 miliardi di sofferenze se ne vanno di fatto dall'Italia qualcosa come il 15% del totale dei crediti ammalorati del sistema bancario, parliamo di sofferenze. Quindi togliendo questa massa di crediti deteriorati, in qualche modo l'intero mercato ne beneficia. L'operazione è interessante perché anzitutto ovviamente inietta dentro le casse di MPS subito 5,4 miliardi che saranno in realtà splittati, saranno suddivisi da una parte in un'iniezione immediata di 3,9 miliardi e poi c'è di mezzo 1,5 miliardi che serviranno di fatto a fare cosa? Ad aiutare quei piccoli sottoscrittori di bond, il mitico bond retail subordinato per Antonveneta, che si vedranno prima convertire i loro bond in azioni e quindi diventeranno di fatto azionisti della banca e poi chiederanno quindi un rimborso. Attenzione, ricordiamolo, per chiunque avesse in mano questi titoli, si tratterà di aspettare comunque l'autunno, perché solamente in autunno avremo la chiusura dell'operazione e quindi solamente a quel punto si capirà esattamente come la banca potrà distribuire questi rimborsi. Lo Stato entrerà e diventerà azionista al 70%, come Padoan ha ricordato potrà uscire entro il 2021, questo non esclude quindi sostanzialmente che possa uscire anche prima se le condizioni lo permetteranno e Padoan prevede di fatto, ma tutti quanti, che le azioni e tutti gli strumenti obbligazionari del Monte tornino in quotazione, tornino in borsa più o meno entro settembre, stiamo parlando, come dire, non appena ci saranno i decreti. Un accenno alle Venete, dicevi giustamente, qua siamo appesi alla buona volontà del Parlamento e alla conversione to cure del decreto. Ho visto che ci sono 700 emendamenti, Emiliano ha dichiarato battaglia su questo. C'è una clausola, come dire, che è intesa. Ha messo una clausola molto chiara. Esatto. Se verrà modificato il progetto del governo, lei si ritira. Allora, su questo mi ricollego nel finale, perché qualcuno mi scrive: per libero mercato per i lavoratori a 1000 euro al mese, socialismo assistenziale per le banche. Non è la cosa, è d'effetto. L'abbiamo spiegato molte volte, le banche sono imprese non simili alle altre perché non possono fallire, hanno un effetto sistemico devastante, tant'è che sono vigilate dalla Banca d'Italia, in alcuni casi sono quotate anche dalla Consob, mentre un'impresa normale non è vigilata da nessuno, se non diciamo dalle normali autorità di polizia giudiziaria. E attenzione a chi fa ragionamento a fatele fallire, bastava fare fallire, attenzione che quando poi si toccano i conti correnti dei pensionati, cittadini qualunque, l'effetto, e quindi la famosa teoria del bail-in sopra i 100.000 euro, l'effetto panico è altissimo, il rischio panico è altissimo, con effetti devastanti, e poi comunque si sarebbero colpiti ulteriormente risparmiatori anche piccoli, sia a Monte dei Paschi di Siena, che vedremo come andrà a finire, su Veneto Banca e Popolare di Vicenza. E su questo capisco che mettere assieme due cose faccia molto effetto, ma sono due temi molto diversi. Mi stanno scrivendo invece moltissimi professionisti giovani che lavorano in studi anche avviati, pagati o niente, o 300 euro o 400 euro o 600 euro, addirittura neanche il rimborso spese, ma non sto parlando solo dei praticanti, sto parlando di chi viene chiamato e molte imprese che offrono lavori a queste cifre. E di questo però, ripeto, non parla mai nessuno. Il tema sono sempre solo le parole di Boeri sugli extracomunitari regolarmente presenti, regolarmente versanti i contributi in questo paese. Allora, grazie intanto anche a Luca Davi. Grazie a voi. Tra l'altro mi fanno notare orari di lavoro lunghissimi anche gli gli italiani su questo. 800 euro da ingegnere con laurea master, 800 euro per 12 ore di lavoro in uno studio di avvocati molto conosciuti. Ho capito. Allora, no, lo dico perché non è, questo era per contrastare la vulgata per cui le paghe degli italiani si sono abbassate solo ed esclusivamente o per via principale perché sono arrivati gli extracomunitari. Non mi sembra che siano sbarcati tutti questi avvocati, ingegneri e futuri commercialisti sulle coste siciliane, eppure vengono pagati da fame, va bene? Allora non diamo la colpa in questo caso agli extracomunitari, oppure mi sono perso io qualcosa, qualche sbarco di avvocati. Ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Intanto da Sebastiano Berisoni lo auguro una buona serata. Radio 24, libera la voglia di fare.